la base del piano. La base della pirata. Per avere più tempo a disposizione da stare con i vostri figli e con le vostre mogli. Quando facevate 1000 pezzi al giorno, mi davano 300 lire di prossimo. Ora ne fate 3000 con i nuovi tempi. La base della pirata. La base del piano. La base del piano.